Letture di Radio 24. Sono 4 milioni gli italiani che dal dopoguerra ad oggi sono stati a vario titolo vittime di errori giudiziari. Per i 22.300 casi accertati dal 1991 ad oggi, lo Stato ha speso 576 milioni di euro in riparazioni per ingiusta detenzione e indennizzi per errori giudiziari. Errori che avvengono anche negli altri paesi, ma che in Italia sono il decuplo rispetto agli Stati Uniti, tanto per fare un esempio. Per avere un'idea di questo campionario di mala giustizia è sufficiente consultare errorigiudiziari.com, dove i giornalisti Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi hanno dato vita al primo database italiano sugli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni. Alcuni degli episodi più clamorosi tra questi sono raccontati in uno speciale dossier pubblicato sull'ultimo numero del magazine Il. Tra questi c'è anche il caso che ha spinto i due giornalisti a svolgere la loro indagine. È quello di Lanfranco Schillaci, che nell'aprile del 1989 era stato accusato dal Tribunale dei Minori di aver violentato la figlia di 2 anni, dopo che un medico dell'ospedale Niguarda di Milano aveva scambiato per violenza quello che 2 settimane dopo un medico un po' più avveduto aveva accertato essere invece un tumore rettale. Lanfranco Schillaci è un professore di matematica siciliano emigrato all'Imbiate, seconda cintura nord di Milano. Sposato con Maria, anch'essa insegnante, padre di Miriam, 2 anni e mezzo. Nell'aprile 1989 Miriam non sta bene. Schillaci la porta immediatamente al pronto soccorso. La bimba perde sangue e sul suo corpo sono comparse delle strane lesioni. I medici la visitano e sputano la sentenza. Violenza sessuale. Schillaci è un mostro, finisce sulle prime pagine di tutti i giornali. Nomi, cognomi, indirizzi, tutto. Appaiono interviste ai vicini di casa che rivelano che sì, in effetti quest'uomo aveva dei comportamenti un po' strani. L'avevo detto io. Irrompe il tribunale dei minori e in un attimo Miriam è strappata via dalle mani del sodomita. I giornali esultano per la celerità dell'intervento di uno stato giusto. Nel branco si asciugano bave insanguinate. Subito si apre la procedura di adottabilità della bambina. Schillaci e la moglie ormai non escono più di casa. Un professore in dermatologia di Savona, Luigi Bruno, legge la notizia e viene a conoscenza della somministrazione reiterata di supposte di tachipirina sul corpo di Miriam. Le lesioni potrebbero essere dovute proprio a questo. Bruni informa la procura di Milano che nella persona della PM Daniela Borgonovo ordina, bontà sua, una seconda perizia sulla bambina. Teratoma sacro coccigeo è il responso, vale a dire cancro al retto. Ecco perché il sangue, perché le lesioni. Il sodomita non esiste. Tra i due accadimenti sono trascorsi solo 12 giorni, che non hanno però impedito sputtanamento e caccia al mostro su scala nazionale. Schillaci lascia lavoro, Lombardia e luci del proscenio per rifugiarsi a casa sua, in Sicilia. Il 3 giugno, neanche un mese più tardi, Miriam muore. Fine della storia. I giornali sprofondano in un imbarazzo senza precedenti. Il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, sente il dovere morale di dire 2 parole a quella famiglia distrutta. Chiede perdono, lamentando la terrena limitatezza della magistratura e i peccati di indifferenza e leggerezza dei giornali che hanno amplificato la tragica vicenda. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Giliberti, Schillaci, vittima dell'errore più infame, dal numero di aprile del magazine Il. Letture di Radio 24. Nel dopoguerra, la vittoria anglo-americana provoca una rivoluzione nei gusti musicali dei vari paesi europei, dove i generi locali vengono soppiantati dal rock and roll. Solo la Francia riesce a mantenere salde le proprie tradizioni musicali, a volte riuscendo anche ad imporre la propria musica oltreoceano. Nella sua guida alla musica francese dal dopoguerra ad oggi, Gianluca Grossi prende in esame 40 esponenti di questa resistenza musicale francese, da Serge Gainsbourg a Georges Brassens, da Jacques Brel a Edith Piaf, fino ai gruppi più recenti, come Les Négresses Vertes, gli Air o i Daft Punk. nati nel 1987 quando Guy Manuel de Homem Cristo e Thomas Bangalter avevano dato vita a una band chiamata Darlin. Nel 1992 debuttano con l'etichetta inglese Duophonic, la stessa degli Stereolab, con un singolo che vende 1500 copie. La stampa specialistica ne è entusiasta, fuorché un critico del Melody Maker che li prende di mira definendoli «A Bunch of Daft Punk», letteralmente un gruppetto di stupidi teppisti. Ma i musicisti francesi sono tutt'altro che impensieriti dalle voci denigratorie. Anzi, è proprio sfruttando lo sfottò del magazine anglosassone che finiscono per dare un nome definitivo al loro gruppo. Da questo momento si chiameranno Daft Punk. Il primo fruttuoso incontro della loro carriera avviene nel 1993, in seguito a un rave tenutosi presso Disneyland Paris. In questa occasione, Guy Manuel e Thomas, terminata l'esperienza con i Darlin, conoscono uno dei responsabili dell'etichetta scozzese Soma. Registrano due singoli che fanno breccia soprattutto in Inghilterra, intrigando i membri più in vista dell'intelligenza musicale di quegli anni. I Daft Punk si rifanno a sonorità tipicamente techno house e acid house, prendendo presto però le distanze dalla purezza del genere e calandosi in una realtà musicale personalissima, che risente di numerose influenze fra cui rock, disco e new wave. Non a caso il loro primissimo singolo si intitola The New Wave. Alla techno tradizionale mescolano figure leggendarie della pop rock come Jimi Hendrix, Kiss, David Bowie e il francesissimo Serge Gainsbourg, per un risultato che non può che essere giudicato all'unanimità elettrizzante e innovativo. Nel maggio 1995 si riaffacciano alle porte di uno studio per dare alle stampe un pezzo strumentale techno rock, da funk, che li proietta nel gota della musica internazionale. Dedicano dunque l'intero anno successivo a un estenuante tour per l'Europa. Con Da Funk vengono notati dai miti di sempre i Chemical Brothers, storico duo inglese di musica elettronica, che li invitano a suonare al loro fianco. Hanno composto solo tre singoli, ma le case discografiche si rincorrono per accaparrarsi i diritti delle loro creazioni. Il passo che segue li vede firmare per una delle realtà commerciali più potenti del mercato discografico internazionale, la Virgin di Richard Branson. La popolarità del duo poi esplode a livello mondiale quando decidono di esibirsi con maschere e passamontagna per nascondere la loro vera identità. In realtà non è altro che un'astuta mossa per sollecitare il più possibile l'interesse del pubblico. Per MTV divengono il server centrale della dance planetaria. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Gianluca Grossi, Guida alla musica francese dal dopoguerra ad oggi. Odoia Edizioni, 382 pagine, 22 euro. La settimana scorsa il Veneto ha detto sì all'indipendenza, al termine della consultazione promossa dal movimento plebiscito.eu. I dati diffusi dal movimento, che parla di un 89% di sì, sono difficilmente verificabili, ma un sondaggio svolto negli stessi giorni dalla Demos rivela che, pur con percentuali inferiori rispetto a quelli del referendum, la maggioranza dei veneti si dichiara favorevole all'ipotesi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana. Sono cifre che denunciano in modo estremo il disagio nei confronti dello Stato centrale, commenta Ilvo Diamanti sulle pagine di Repubblica. Sono state accolte con qualche sorpresa e molta perplessità, per non dire incredulità, le notizie riguardo al referendum sull'indipendenza del Veneto. Secondo i promotori, vi avrebbero partecipato circa 3 elettori veneti aventi diritto su 4, quasi 2 milioni e mezzo, con un esito plebiscitario 89% di sì. Naturalmente i dati sono ipotetici e non verificabili. Così in Italia è prevalsa la tendenza a liquidare l'iniziativa con un misto di sarcasmo e di scetticismo, a differenza degli osservatori stranieri, che hanno invece trattato l'evento con attenzione, non solo per il precedente immediato della Crimea, ma ancor più per le tensioni indipendentiste che scuotono altri paesi europei, in Gran Bretagna, Spagna, Belgio. Così, mentre cresce l'insoddisfazione verso l'Unione Europea, si acuiscono le divisioni all'interno degli stati nazionali. Per questo conviene prendere sul serio il segnale che proviene dal Veneto, anche perché rivela sentimenti estesi, in misura magari non plebiscitaria, come quella dichiarata dai venetisti, ma tuttavia maggioritaria. Lo conferma un sondaggio di Demos, condotto presso un campione rappresentativo di elettori veneti nei giorni scorsi, per la precisione il 20 e il 21 marzo. La partecipazione al referendum, dai dati, esce ridimensionata, ma resta comunque molto significativa. Quasi metà degli elettori veneti, infatti, sostiene di aver votato oppure di essere intenzionato a farlo, e poco meno dell'80% di essi si dice favorevole al quesito referendario, l'indipendenza veneta. Una posizione condivisa, d'altronde, da un terzo di coloro che dicono di non essere intenzionati a votare. Nell'insieme, la maggioranza degli elettori si dice d'accordo con l'ipotesi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, circa il 55%, mentre i contrari sono poco meno del 40%. Dunque, l'indipendenza costituisce una prospettiva attraente per la maggioranza della popolazione. Piace soprattutto agli imprenditori e agli operai. I lavoratori dipendenti e autonomi della piccola impresa, che costituiscono il distintivo economico e sociale del Veneto. Solo tra i più giovani, e quindi fra gli studenti, la posizione contraria all'indipendenza prevale nettamente. Oltre che fra i disoccupati. La distanza dei veneti dallo Stato nazionale, dunque, è cresciuta e oggi si traduce in aperto distacco, in misura molto maggiore che in passato. Tuttavia, molte cose sono cambiate negli ultimi anni. La crisi, anzitutto, ha accentuato il risentimento verso lo Stato, riassunto non solo simbolicamente in Roma capitale. Le difficoltà economiche, infatti, hanno sollecitato maggiore sostegno e hanno reso più acuto il contrasto con il ceto politico e la burocrazia centrale. A differenza del passato, inoltre, la rivendicazione indipendentista oggi non evoca patrie immaginarie come la Padania, ma neppure aree poco definite e internamente differenziate come il Nord, che è diventato lo stesso Nord-Est, richiama invece il Veneto, la regione, considerata l'ambito che suscita maggiore appartenenza da circa il 25% dei veneti. Non a caso la Lega, inizialmente tiepida verso l'iniziativa, l'ha in seguito sostenuta. Il governatore Luca Zaia, in particolare, che si prepara a sua volta a far votare al Consiglio Veneto una proposta di legge per indire un referendum formale per l'indipendenza. Bisogna dunque prendere sul serio il segnale che proviene dal referendum. Al tempo stesso bisogna interpretarne correttamente il significato. Indipendenza significa infatti non dipendenza, e dunque autonomia, autogoverno, non necessariamente secessione. Ne danno conferma le opinioni circa il modo migliore per sostenere gli interessi del Veneto. La piena indipendenza del Veneto, infatti, è sostenuta da una quota ampia ma non superiore al 30%, meno di quanti riterrebbero più utile eleggere parlamentari migliori, dunque capaci di esercitare maggiore pressione su Roma, mentre appaiono ampie anche le componenti federaliste. L'indipendenza, dunque, costituisce per i veneti e il Veneto un modo per denunciare in modo estremo il disagio nei confronti dello Stato centrale, l'insoddisfazione contro la classe politica e di governo, non solo nazionale, ma anche regionale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Ilvo Diamanti, L'indipendenza del Veneto non è uno scherzo, dalla Repubblica del 24 marzo. A 30 metri circa sotto la superficie di Londra c'è un luogo dove la temperatura si aggira sempre attorno ai 19 gradi, anche d'inverno, ma è così buio che non si vede ad un palmo di naso. Sono i sotterranei di Londra, una città sotto la città, i cui confini sono ancora incerti, dato che non compare in nessuna mappa. Dopo aver esplorato la città di superficie nei suoi precedenti libri, Peter Aykroyd si addentra ora nel sottosuolo di Londra per raccontare i segreti che si annidano tra le catacombe, le reti fognarie, i rifugi costruiti durante la guerra e gli scavi della metropolitana. Uno dei capitoli più affascinanti è quello dedicato ai 13 fiumi dimenticati, che un tempo passavano tra campi e valli e ora corrono lungo tubazioni e fognature. Molti sono affascinati dai fiumi nascosti e ne indagano il corso, con le mappe se non con la bacchetta da rabdomante.